tornare. Scrivi per unire, agisci per rovesciare. Sciopero selvaggio, never was a cornflake girl, thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a baby. There must have been a nice price. E oggi volevamo iniziare con un contributo di una compagna, Alba Carla Laurita de Cespedes, una compagna nata nei primi del Novecento. È stata scrittrice, poetessa e una partigiana. Il suo pseudonimo era Clorinda e era anche il suo nome di battaglia da partigiana. Sua madre Laura Bertini era una romana e volevamo leggervi insomma una sua poesia per iniziare. Lettera a una madre. Mamma, comprendimi fin d'ora. Dovrai ben comprendermi un giorno. Anche gli altri dovranno. Ma avresti capita di certo se fossi fuggita con un amante. Sei una sentimentale e all'età mia queste fughe finiscono in marcia nuziale. Avresti compreso se me ne fossi andata perché volevo diventare una stella della televisione, pagata 1 milione per sera. Non me ne sono andata per guadagnare molti soldi, né per vivere un romanzo rosa. Ti ho lasciato per qualcosa che credo sia giusto. Ascoltami, madre della mia infanzia, il tuo volto ansioso presso il mio letto, madre sfinita, madre di guai e di commissioni, madre piena di preoccupazioni, madre di 4 figli lunghi da portare, madre straniera a tutto quello che ero, eppure madre che mi capiva senza capire. Non essere dalla parte della polizia, dalla parte della borghesia, non è dalla tua parte quella, madre della sporta pesante, dal portamonete leggero, dalle mani che emanano decenni di rigovernatura, di spazzatura, di minestra di verdura, con le tue paure di moglie di impiegato che può essere licenziato da un giorno all'altro. Mamma, vorrei parlarti come ti parlo di lontano. Ti voglio bene, lo sai, anche se non tornerò mai, mai più a casa. Mamma, perdonami di non aver sposato il ragazzo del quarto piano che aveva un bel avvenire assicurato all'esattoria comunale. Perdonami per la veste nuziale che non potrai comperarmi. Non sono quella che sognavi, ma non sono nemmeno quella che tu piangi. Sono una figlia come tante altre, una sconosciuta che ti somiglia e fa una vita che non ti piace. Siamo tutti così per i genitori, ma per ogni figlio la propria madre è una madre straordinaria. Madre, addio o arrivederci, come vorrai. Puoi sempre chiamarmi da Marion. Lei sa dove trovarmi. Ti voglio bene, mamma. Come possiamo amare oggi, senza commozione e senza pietà? So quiet, shh, shh, it's oh so still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until the sky up above, safer is chaos. cry, you wanna love, you wanna cry, you crush your heart and hope to die till it's over. And then allora, ciao a tutte, ciao a tutti, siamo alla nostra prima parte delle notizie. La volevamo dedicare, almeno la prima parte della prima parte, alle iniziative pre 25 novembre, cioè ci sono diverse assemblee che sono in ballo. Allora, sabato 9 novembre ci sarà un'assemblea aperta delle donne Notav, che ci dicono nel loro comunicato: la violenza maschile sulle donne si combatte a suon di decreti legge, e noi qui in valle come la viviamo? Discutiamo insieme a partire dalle nostre esperienze di vita e di lotta nella sala consiliare di Bussoleno alle 16 appunto di sabato 9 novembre. E le donne Notav hanno impostato la loro assemblea proprio sul decreto legge famosissimo, quello sul femminicidio poi trasformato in legge, che invece di essere un decreto legge in effetti è un pacchetto sicurezza, e di norme sulle lotte della Val di Susa ne ha e come, anzi ha delle norme che sembrano fatte apposta per le lotte della Val di Susa. Loro ne discuteranno insieme e decideranno, a partire da una visione di genere, come reagire. Ciao a tutte, poi domenica 10 novembre alle 12 allo spazio liberato del 22 in via dei Volsci ci sarà un'assemblea cittadina sulla questione dell'Aquila, sullo stupro dell'Aquila. E di questa iniziativa vi leggo il comunicato. Toccano una, toccano tutte. Assemblea cittadina al 22 contro la violenza degli uomini sulle donne. Il 12 febbraio 2012, in una discoteca di Pizzoli, L'Aquila, una giovane donna di 20 anni è stata stuprata e ridotta in fin di vita. Per questa violenza è stato processato Francesco Tuccia, un militare in servizio all'Aquila, nel quadro dell'operazione Strade Sicure, inaugurata nel 2008 e imposta all'Aquila nel dopo terremoto. Con lui quella sera c'erano altri due militari, mai indagati né ascoltati, uno figlio di un vice commissario e l'altro nipote di un magistrato. La ragazza è stata ridotta in fin di vita e le sono state procurate lesioni gravissime e permanenti. Il 18 ottobre 2012 all'Aquila si è aperto il processo, svoltosi a porte chiuse. Quel giorno eravamo lì al tribunale dell'Aquila. Abbiamo presidiato quel tribunale ogni volta per dire che la violenza contro le donne, agita da uomini, con o senza divisa, ci riguarda tutte. Uomini, militari. La divisa è solo l'ulteriore aggravante. Abbiamo presidiato quel tribunale perché una di noi è lì e non vogliamo lasciarla sola in una dinamica processuale che si rivela sempre e comunque contro di noi, perché è parte di un sistema che usa, sfrutta e violenta le donne per autoriprodursi. Con l'udienza del 31 gennaio 2013 si è concluso il primo grado del processo con una sentenza di condanna a 8 anni per violenza sessuale e lesioni gravi. Ad oggi Tuccia, ai domiciliari dai primi di giugno senza alcuna restrizione, sta lavorando presso un'associazione in quel di Altavilla, Irpinia, provincia di Avellino, suo luogo d'origine. La Corte d'Appello ha stabilito per il 6 dicembre 2013 l'inizio dell'udienza di appello. Tante sono le connivenze, gli intrecci e le protezioni reciproche in questa vicenda, sul piano politico e non solo. Tante sono le domande sul non coinvolgimento degli altri due militari lì con Tuccia quella notte, sui molteplici ruoli degli avvocati di Tuccia sul territorio aquilano e non solo, e sulle responsabilità di quello che è successo all'interno dell'ospedale la notte in cui la ragazza è stata portata lì. Tante e complesse sono le riflessioni scaturite a partire da noi, e proprio perché non crediamo nella giustizia dei tribunali, ma crediamo e pratichiamo la vicinanza e la solidarietà tra donne, e sappiamo e riconosciamo che la forza delle donne dentro e fuori i tribunali ovunque viene da noi stesse e dalle relazioni con le altre, stiamo continuando a costruire un percorso di riflessione e lotta. A partire da qui invitiamo tutte a partecipare ad un'assemblea. Quindi questa assemblea cittadina, ripeto, è prevista per il prossimo 10 novembre alle ore 12 al 22 in via De Volsci 22, appunto. E noi come coordinamenta abbiamo cercato di portare a sintesi per il prossimo 25 novembre tutte le riflessioni che abbiamo fatto finora, sia sulla violenza maschile sulle donne, sia in effetti sull'analisi di questa società in tutto questo periodo in cui ci siamo visti e abbiamo discusso insieme. Quindi venerdì prossimo, che è l'8 novembre, vorremmo fare una riunione allargata e aperta, e l'abbiamo proprio chiamata con un comunicato, insieme con le compagne con cui abbiamo un comune sentire, per decidere insieme e condividere le iniziative appunto per verso il 25 e per il 25. E questa assemblea riunione la faremo appunto venerdì, ribadisco, 8 novembre al 22 di Via dei Volsci, sempre nello spazio separato del 22 di Via dei Volsci, alle 19:30. Però vorremmo farvi partecipi un attimo di quello che, delle riflessioni che abbiamo fatto, di quello che è venuto fuori appunto da tutte le discussioni, le nostre discussioni di questo periodo, e quindi ci farebbe piacere leggere alcuni stralci del nostro comunicato, che comunque potete trovare sul nostro blog, che è coordinamenta.noblogs.org. Il nostro percorso di analisi e di lotta contro la violenza maschile sulle donne ci ha condotti ad indagare non solo sugli effetti e sui risultati manifestamente sotto gli occhi di tutti e tutti, ma sulle ragioni strutturali che della violenza maschile sono causa. Siamo partite dalla riflessione sulle nostre esperienze nei territori, che sono diversificate a seconda dei percorsi delle compagne che della coordinamenta fanno parte. Delle lotte condotte in questi anni contro i CIE e la violenza di genere esercitata in quelle strutture, alle lotte sui posti di lavoro, dalle esperienze contro la medicalizzazione delle esistenze a quelle all'interno dell'università, da quelle contro la devastazione ambientale e la difesa del territorio a quelle per l'occupazione delle case e degli spazi collettivi, estraendone gli aspetti dell'oppressione di genere e intrecciandoli con l'analisi teorica, con la storia e con la memoria del movimento femminista e dei movimenti di lotta. e allo stesso tempo abbiamo indagato la violenza di genere che ognuna di noi ha subito nel corso della sua vita, più o meno consapevolmente, più o meno mascherata, non necessariamente eclatante, ma sottile e pervasiva, dalla scuola, dagli ambiti lavorativi, alla famiglia, al controllo sui nostri corpi. Il è parti soldat, quand il reviendra de la guerre, gli prendront une maison, elle sera la caissière, et lui sera le patron. La vie sera belle, ils seront de vrais pachas, et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java, elle fredonne tout bas, elle revoit son accordéoniste, et ses yeux amoureux suivent le. E pensiamo che la lotta contro la violenza maschile sulle donne sia inscindibile dalla lotta contro la società capitalista e neoliberista, con involucro dentro il quale oggi si perpetua la società patriarcale. La nostra lotta non può essere categoriale e settoriale e non può essere ridotta a difesa di vittime da tutelare e meno che meno a categoria che pretende privilegi e trattamenti differenziati. La visione delle lotte categoriali e settoriali producono privilegi per poche a discapito della stragrande maggioranza delle altre, perché sono il frutto di una visione parziale che nasconde i meccanismi originari di oppressione e perché ci riducono a specie protetta da salvaguardare, bisognosa di riserve a cui sopravvivere, delegando la nostra difesa al sistema patriarcale, che diventa così paradossalmente allo stesso tempo nostro carnefice e salvatore tutore. La violenza di genere si definisce a partire dalla funzionalità che assolve nel mantenimento del sistema del potere. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. Arrêtez. Questo, insomma, questo comunicato vuole far intendere proprio qual è la nostra visione di genere e quanto sia importante una lettura sia di genere che di classe dell'esistente, di quanto sia necessario per noi femministe e compagne avere una prospettiva di qualità di vita che non sia quella che ci viene proposta ovviamente da questo sistema sociale economico e che ci rende appunto strumentalizzabili e molto spesso insomma anche quello che si è definito in qualche modo insomma femminismo, che poi ovviamente non lo era, ma era semplicemente una piccola maschera che indossava, tenta comunque sempre di recluderci spazi di libertà e di farci assolvere il compito che in realtà la società ha già deciso che noi dobbiamo compiere. È proprio per questo che vorremmo impostare questo 25 novembre non in maniera appunto settoriale e categoriale, ma abbracciando tutto campo con una visione di genere sociale. Sceglieremo insieme alle compagne, vorremmo scegliere insieme alle compagne un ambito di intervento, perché abbiamo soltanto l'imbarazzo della scelta. Uno dei primi che mi viene in mente, che viene in mente a me, che per esempio potremmo proporre poi in assemblea venerdì, è quello della legalità, no? Allora, è stato fatto il decreto, questo decreto legge poi trasformato in legge sul femminicidio. Allora, così di primo acchito, che cosa ci verrebbe in mente come femministe? Ci verrebbe in mente di fare qualche azione, qualche iniziativa contro un decreto legge o comunque contro una legge che ha strumentalizzato la violenza sulle donne in maniera eclatante per varare un pacchetto sicurezza. Però secondo noi non basta. Diciamo, questo approccio è limitativo. Andrebbe per esempio impostato un discorso sul concetto di legalità e sul concetto di norma, e il concetto di legalità e il concetto di norma come donne dovremmo combatterlo in maniera molto decisa, perché noi sappiamo quanto la legalità e quanto la norma abbia causato sofferenza e dolore nella storia delle donne. E noi sappiamo per storia recentissima tutte le traversie che le donne fino a pochissimo tempo fa hanno dovuto subire quando volevano soltanto abortire o soltanto quando avevano una storia d'amore non riuscita, o anche soltanto quando osavano avere una storia al di fuori del matrimonio, per cui l'adulterio femminile era punito con 3 anni di carcere, mentre quello maschile non esisteva. A parte il fatto che il concetto stesso di adulterio ci è assolutamente distante, però questa era la norma, perché la norma in effetti corrisponde a tutto un sistema di regolamentazione sociale che è quello che viene imposto dalla classe al potere. Di conseguenza, combattere la norma, combattere il proliferare della legislazione, combattere la legalità e il concetto di legalità, che invece poi in questa società viene sbandierato a destra manca come un feticcio, è uno dei passi da affrontare. Won't you take me away from here? So in realtà, appunto, molto spesso la legalità è la legalità ovviamente bianca e occidentale, è una legalità maschile, è una legalità che non contempla ovviamente tutte le categorie sociali o le classi sociali. Ovviamente dice di essere trasversale, ma ovviamente non può essere trasversale, perché la trasversalità sappiamo perfettamente che non esiste, perché ovviamente le classi sociali più deboli sono sempre quelle a essere toccate, e soprattutto per quanto riguarda il genere ovviamente le donne hanno sempre rappresentato il genere oppresso, perché insomma è abbastanza semplice comprendere, insomma. E appunto molto spesso, soprattutto sulla questione normativa, mi viene in mente da pensare quanto noi soprattutto in questo momento, anche attraverso appunto i nuovi politicanti che si sono affacciati, i nuovi volti dei vari partiti che insomma rispuntano fuori tentando di rubare il potere, insomma, ai papà e alle mamme, no, capo partito, e rivendicandosi ovviamente per prendere più voti, che bisogna togliere questo, bisogna mandare in galera quell'altro, bisogna. E a volte, molto spesso, ci siamo trovate a sentirci dalla parte anche di chi ovviamente non avremmo mai difeso, e ovviamente insomma è il nostro nemico di classe, proprio perché noi siamo contrari al carcere e vogliamo l'abolizione di questa struttura. Questo poi mi fa pensare anche molto spesso al fatto che appunto noi guardiamo esclusivamente la nostra normativa come qualcosa di democratico e di super partes, di tanto giusto, e vogliamo salvare appunto i nostri grandi valori appunto occidentali, bianchi, europei e maschili, e ci mettiamo comunque sul piedistallo nel giudicare altre culture, altri paesi, altre religioni. Ovviamente non siamo noi quelle che insomma si mettono a difendere religioni di nessun genere, però non mi trovo d'accordo nel momento in cui molto spesso, soprattutto per quanto riguarda l'Islam, le critiche che molto spesso partono sono appunto del fatto che noi deteniamo la libertà che invece dovremmo in realtà elargire anche alle donne degli altri paesi, quando poi purtroppo, esaminando quello che è il testo sacro dell'Islam, in realtà, cioè nel senso, non è che sia tanto meglio o peggio della Bibbia, ma semplicemente è un libro che definisce appunto la norma di quello che è la donna, è un oggetto ma almeno lo dice. E allora vi ricordiamo l'appuntamento di venerdì 8 nello spazio separato del 22 di Via dei Volsci, per vederci e un parlarci insieme, per decidere le iniziative da prendere per il 25 novembre. E a questo proposito volevo soltanto leggervi la chiusura del comunicato che, in cui abbiamo scritto che portare a sintesi quello che finora ci siamo dette significa essere nei vari processi di alterità e di uscita da questa società, proprio perché l'oppressione di genere viene esercitata dalla società patriarcale in tutti i momenti della vita e sta a noi rendere esplicita, manifesta e combatterla. A proposito della legalità, volevamo finire questa prima parte della legalità, della norma, eccetera, finire questa prima parte e introdurre la seconda che volevamo fare sul concetto di carcere di norma, in particolare di carcerazione femminile, con una notizia che è veramente del... non lo so, non saprei neanche come definirla. Sì, è una notizia che abbiamo preso dal Corriere del Mezzogiorno nella sezione Sicurezza Urbana. Il titolo è Sicurezza nelle piazze, Emiliano difende l'ordinanza antisguardi. Il sindaco: abbiamo ascoltato le richieste dei comitati, gli assembramenti possono diventare pericolosi. E, se ci sono gruppi di persone che passano 12 ore al giorno fermi in queste piazze, senza alcuna motivazione, ma anzi incitano anche con il semplice sguardo i cittadini ad allontanarsi, con questo provvedimento le forze dell'ordine avranno uno strumento per intervenire. Il sindaco Michele Emiliano, sindaco di Bari, che è stato anche magistrato antimafia, difende la sua ordinanza che serve a garantire la maggiore sicurezza in 5 piazze storiche della città: Piazza Umberto, Piazza Cesare Battisti, Piazza Moro, Piazza Garibaldi e Piazza Balenzano. E adesso leggiamo rapidamente l'intervista che è stata fatta a questo sindaco. Sindaco, quali sono le ragioni dell'ordinanza, in particolare del divieto di sostare prolungatamente in gruppo con atteggiamento di sfida, presidio o di vedetta? Noi abbiamo ascoltato le richieste dei comitati che più volte hanno lanciato appelli sulla mancata sicurezza di alcune zone della città. La situazione più problematica è quella di Piazza Umberto, dove ci sono gruppi di persone di diverse etnie, dai georgiani ai nigeriani ai somali e agli stessi baresi, che stazionano per ore e ore sulle panchine senza alcun motivo apparente, ma in realtà fuggono da vedette del territorio e molte volte allontanano anche con il semplice sguardo i cittadini. La seconda domanda è: lei ha sempre denunciato la carenza di personale delle forze dell'ordine. Come si può applicare questo e gli altri divieti previsti nell'ordinanza a Bari se non ci sono abbastanza uomini? Certo, se mi si chiede di mettere squadre di vigili a presidiare 24 ore su 24, io stesso dico che è impossibile. Ma se due pattuglie passano ad esempio per 6 volte al giorno nel loro giro quotidiano da quei giardini e notano che ci sono sempre le stesse persone che stazionano, allora con questo provvedimento si può intervenire. I vigili, così come la polizia e i carabinieri, possono avvicinarsi e chiedere i documenti. Solo con questa azione si fa prevenzione e si allontanano i gruppi. La dobbiamo leggere tutta perché veramente non riesco. Vabbè. Altra domanda è: l'obiettivo quindi dell'amministrazione è la prevenzione dei reati, ovviamente. Partiranno anche le multe? Io cerco di intervenire su quegli atteggiamenti che rischiano di diventare un problema. Non è detto mica che ogni volta che si vedono gruppi di persone che non ci convincono debba partire la multa o la denuncia penale. Noi vogliamo evitare che episodi che si verificano ogni giorno in quelle piazze continuino ad accadere. Parliamoci chiaro, soprattutto in Piazza Umberto ci sono spacciatori, prostitute. E certo la prostituzione è legale, ma sicuramente i vigili possono avvicinarsi alla donna e chiedere il perché staziona per ore nel giardino. L'ordinanza diventerà un deterrente. E poi l'ultima domanda, simpatica: cosa risponde a chi considera questa ordinanza una forzatura? Noi non vogliamo commettere alcuna violenza nell'allontanare le persone, ma sicuramente non si può occupare un giardino per ore, cacciando i cittadini che vogliono usufruire dell'area. C'è bisogno di maggiore informazione riguardo a questo provvedimento. Nelle prossime ore sistemeremo dei cartelli, distribuiremo volantini per spiegare in cosa consiste l'ordinanza. E se sarà necessario, andrò io a parlare con chi ogni giorno frequenta le piazze. D'altronde, una simile ordinanza l'avevano già fatta a Bari Vecchia e ha dato i suoi frutti. Allora aspettiamo il sindaco Emiliano che vada a parlare nella piazza e magari andremo anche noi nelle piazze per parlare con lui. Mi risulta che l'abbia fatto anche qualcun altro, mi sembra che sotto il fascismo ci fosse qualcosa di simile. Through the walls they made them mud pie. I've got your mind, I said, she said, I've your voice. I said, you don't need my voice, girl, you have your own. Put in the thong, it was enough of. So they went years and years, like sisters, blanket, blanket girls, always there through that and this. There's nothing we cannot ever fix. I said, can't stop what's coming, can't stop what is on its way. Hey, can't stop what's coming, can't stop what is on its way. Bells and footfalls and soldiers and dolls, brothers and lovers, she and I were. Now she seems to be sand under his shoes. There's nothing I can. Stop what's coming, can't stop what is on its way. Can't stop what's coming, can't stop what is on its way. And now I speak to you, are you in there? You have a face and her eyes, but you are not her. And we go at each other like blankets, blankets, who can find them? Can't stop loving you. Can't stop loving. Can't stop what it's on its way. And I see it coming, and it's on its. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. And it's bringing me out the dark. The scars are La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Momento magico. Il femminismo è nato dalla prassi consapevole di soggetti che intendevano liberarsi, e la liberazione di noi tutte è il programma del passato, del presente e del futuro. C'è stato un momento magico in cui le donne hanno pensato di potersi riappropriare del proprio corpo, della propria sessualità, della propria vita. È durato un anno, qualche anno, un mese, qualche mese, per ognuna è stato un tempo diverso, ma è bastato per prendere su di sé una consapevolezza che è potenza, che è l'aver assunto la certezza che la liberazione può essere, che non è utopia, mito, sogno o follia, ma autonomia e autodeterminazione. La conoscenza del nostro corpo, dai primissimi timidi tentativi, si è aperta poi a ventaglio, è stata la scoperta della fisicità, la gestione della salute, della sessualità, dei desideri, della mente, fino a una grande positiva sensazione di onnipotenza, sensazione di poter finalmente decidere di sé e per sé. Ma anche consapevolezza della costruzione sociale del nostro essere e del corpo, per cui esistevano tante immagini esterne della femminilità e del corpo stesso, quante erano e sono le classi e le frazioni di classe. Quindi con penetrazione di conoscenze di sé e di conoscenze del fuori. Ma mentre cercavamo di portare avanti questo percorso di consapevolezza e di utilizzare politicamente le correlazioni che avevamo messo in atto per spezzare l'organizzazione e l'ordine sociale classista e sessista, la risposta del femminismo socialdemocratico è stata ricostruzione dei ruoli e puntello di questo ordine sociale. E questo processo è stato attuato attraverso appositi grimaldelli: il gratuito, la delega, l'esperto e gli esperti. L'uso strumentale del gratuito ha offuscato e nascosto, come in una nebbia, la differenza che esiste tra il diritto ad avere i servizi gratuiti da parte dello Stato, da cui non si può e non si deve prescindere, e il delegare allo stesso i propri spazi di aggregazione e di crescita politica, oltre all'enorme mistificazione passata attraverso il concetto del cambiare le istituzioni dal di dentro. L'affidamento di nuovo agli esperti, anzi alle esperte, perché il numero di donne che fanno le psicologhe, le sessuologhe, le psichiatre, le specialiste in senso lato del comportamento è notevole, ha condotto alla medicalizzazione delle esistenze da un lato e dall'altro alla perdita della capacità di conoscersi e di riconoscersi in autonomia. La grande vittoria del patriarcato è di aver stravolto il carattere originario e originale del femminismo e di averlo fatto attraverso la componente socialdemocratica. La messa in discussione dell'organizzazione sessuata mette necessariamente in discussione l'organizzazione gerarchica, autoritaria, verticistica, da cui il patriarcato per un verso e il capitale per un altro non possono prescindere. Il nostro impegno quindi è piccolo e grande allo stesso tempo, ma non è merce di contrattazione. L'obiettivo è la nostra liberazione. Ciao. Passiamo alla seconda parte della nostra trasmissione. Oggi vorremmo cominciare una serie di approfondimenti sulla detenzione femminile. Analizzando i dati ci siamo rese conto, anche se è un dato di dominio pubblico, che il numero delle detenute, cioè delle messe in carcere, è di molto inferiore a quello dei maschi. Per esempio, prendiamo i dati aggiornati al 31 ottobre 2013 e prendiamoli a caso, sono fatti a seconda delle regioni, no? E dice, per esempio, Abruzzo, su un totale di detenuti presenti 2022, sono 73 le donne. Prendiamoci il Lazio, su un totale di 7.100 le donne sono 499. La Lombardia, 8.908 il totale dei detenuti, 567 le donne. E giù andiamo in Sicilia, su 7.009 detenuti totali, 151 sono donne. Ovviamente non pensiamo affatto, come pensa qualche femminista della differenza, che le donne siano migliori degli uomini, e neanche che siano diverse. Pensiamo più che altro che siano costruite in maniera socialmente diversa, che è completamente un'altra cosa. È chiaro che quindi diventa evidente che se le donne delinquono di meno, significa che sono sottoposte a dei dispositivi di assoggettamento molto più forti, a cominciare da quando nascono. E vorremmo riflettere infatti su questo, prima di tutto dicendo che il concetto di carcere è strettamente legato a quello di norma. Şafaklar tutuşsun, bizim olsun emeğimiz E a proposito del concetto di norma e la detenzione femminile, volevo leggervi un pezzettino molto piccolo preso nel libro di Goliarda Sapienza, l'Università di Re Bibbia. Allora, incazzona, si può sapere quale scusa hai trovato stamattina per farti girare le palle? Ho visto lui, risponde Roberta senza muovere un muscolo del viso. Barbara, questa frase, scrollando le spalle, esce dalla cella, come se la cosa non la interessasse o la conoscesse troppo bene, mentre io sono costretta dalla curiosità a domandare: lui chi? Il giudice? No, mio marito. Per un giudice non mi sarei mica vestita così. Ah, sei sposata? Non lo sapevo. Ci siamo sposati l'anno scorso, in prigione, perché solo alle coppie legali danno il permesso di vedersi una volta alla settimana. Anche Suzy ha il marito a Re Bibbia maschile, ma è terribile. Cosa? Oggi, per esempio, mi metto questo vestito. L'ho fatto io, per 10 giorni ho lavorato. Ebbene, lui si incazza. Come puoi avere testa a farti un vestito? Voi donne, eccetera, eccetera. Il fatto è, Goliarda, che noi donne reggiamo meglio il sistema carcerario. Certo, questo è possibile perché abbiamo un passato di coercizione. E qui, in fondo, troviamo uno stato di cose che non c'è nuovo. Il collegio, la famiglia, la casa. Sappiamo ancestralmente usare le mani, distrarci con 1000 lavoretti. E accetto anche, come lui dice, che sappiamo essere meschinamente furbe. Now, don't you know, I am never gonna let you go. Don't go. Don't go. Yeah. Don't go. Volevamo ritornare un attimo sulla questione del sindaco di Bari, e ricordando che insomma la stessa dinamica è quella che si è proposta anche all'Aquila dopo il terremoto, con le ordinanze contro adunanze sediziose rappresentate da riunioni in luogo pubblico di più di 3 persone, che, come insomma le compagne ci facevano notare prima, si tratta di una disposizione fascista e nient'altro, e non sicuritaria o legalitaria, non è che cambiando il nome le cose poi si cambia il contenuto, e che in generale è una carta che viene calata molto spesso con frequenza, soprattutto alla svolta del CD Terrorismo Internazionale. Quindi insomma questo lo sentiamo molto vicino anche alla questione carceraria, perché ovviamente insomma se si può rischiare il carcere semplicemente perché se ci si vede in gruppi di 3 in zone che vengono ritenute particolarmente sensibili, o perché bisogna tutelare la popolazione non è tutelata ma è semplicemente buttata in galera. Certo, e infatti proprio per questo volevamo un attimo ritornare al concetto al rapporto tra carcere e norma, perché uno finisce in carcere, perché c'è un sistema normativo che si traduce in un sistema legislativo che di fatto rappresenta il rapporto di forza che esiste fra le classi, e la legge infatti non è altro che la codificazione del rapporto di forza esistente. Allora, questo che cosa significa? Che la norma, trasgredire la norma, comporta una reazione da parte del sistema. Noi donne in questo senso siamo particolarmente siamo state, come aveva letto prima la compagna dal libro di Goliarda, siamo sempre state molto più abituate dei maschi a sottostare e ad essere codificate secondo delle norme precise. Il panopticon è la nostra società. Il controllo non si cala più dall'alto, ma la pervade da dentro e investe tutti i momenti della vita. Una miriade di forme di controllo, telecamere, cimici ambientali, telefonini, lampioni intelligenti, nanotecnologie, rastrellano una quantità enorme di dati sulle cittadine e cittadini e li inviano alle centrali dove sono posti i guardiani e i controllori. Come le detenute e i detenuti del panopticon non erano in grado di relazionarsi tra loro, così le cittadine e i cittadini, spinte e spinti alla desolidarizzazione in una società atomizzata, non sono più in grado di creare legami sociali. La funzione della finestra esterna, che serviva a far entrare solo la luce nella cella per far sopravvivere gli stretti, nella società oggi è assolta dal consumismo. E infatti la società neoliberista è una società che ha dato la stura a una proliferazione di leggi e di norme penali che fino ad ora non erano mai state così invasive e così numerose, e che hanno invaso poi anche la sfera del personale, la sfera del privato, la sfera sessuale, la sfera intima, e tutto questo non è altro che man mano uno spostamento dallo stato di diritto allo stato etico, cioè lo stato si arroga il diritto anche nei comportamenti personali e nei comportamenti privati di dire che cosa è giusto e che cosa non è giusto, e di trascinarlo nel penale. Questo quindi che cosa comporta? Comporta che c'è un sovraffollamento assurdo delle carceri, perché se voi sentite la televisione, se voi sentite tutti i servizi di qua e di là, vi accorgerete che diranno: ah, le carceri sono sovraffollate, i detenuti stanno in 6 per stanza per cella dove dovrebbero essercene soltanto 3, compagnia bella. Però nessuno dice a che cosa è dovuto questo sovraffollamento. È dovuto a questa proliferazione, a questa facilità, questa scelta di mettere in carcere le persone che non sono rispettose della norma che questo Stato e questo sistema hanno codificato. Una per tutte poi è la proliferazione delle persone incarcerate per la legislazione sugli stupefacenti, no? Per esempio. A questo proposito, sulla popolazione carceraria, leggiamo due righe da Contro Maelstrom, il blog contromaelstrom.com, che in quattro parole riesce a fotografare la, non solo la situazione degli istituti penitenziari italiani, ma anche a farci capire le ragioni del perché del sovraffollamento, no? Dice: al 30 settembre 2013 la presenza dei detenuti ammontava a 64.758 persone. A parte il fatto che 61.900 erotti sono uomini e 2.008 erotti sono donne, no? Sempre per quel discorso di prima. Però il 35,2% è composto da persone non italiane. Il 39,4% ha un'imputazione o condanna per violazione della legge sugli stupefacenti. Il 53,4% è dentro per reati contro il patrimonio. Quindi vi rendete conto che sono tutti reati o addirittura di condizione, perché le persone non italiane molto spesso sono incarcerate per una condizione di povertà e con tutto quello che comporta, a parte il fatto poi anche gli italiani, non solo le non italiane, ma poi la legge sugli stupefacenti, i reati contro il patrimonio, la dicono lunga sul tipo di carcerazione che questo sistema porta avanti. Quindi insomma volevamo un attimo concludere, visto che insomma il tempo a nostra disposizione è quasi terminato, lasciandovi sicuramente anche alla prossima, il prossimo approfondimento della prossima trasmissione sarà quello sempre della detenzione femminile, però insomma volevamo lasciarvi con un minimo di conclusione sul discorso, anche se il discorso è molto ampio, sia di dati che di racconti che di esperienze ce ne sono molte purtroppo, e quindi insomma questo è stato un primo momento per tentare di farvi vedere con i nostri occhi quello che pensiamo del sistema carcerario, e quello che ci sembra sicuramente un primo passo per appunto andare verso la distruzione del carcere, l'abolizione totale, è sicuramente ricostituire una rete di solidarietà tra i compagni e le compagne, tra i detenuti e le detenute, tra chi sta fuori, tra le famiglie, tra tutti quanti, perché proprio per come diceva la compagna prima, ci troviamo in una società che tenta e ci riesce molto spesso ad atomizzarci, che fa sì che sia ognuno per sé e Dio per tutti. In questo caso non è Dio, ma è lo Stato che caritatevolmente, paternalmente si occupa di noi, appunto tutelandoci con la sua sicurezza, con le sue leggi economiche, elargendo ogni tanto qualche soldino per il fine settimana. Sembra veramente di avere un genitore che insomma si occupa della nostra crescita, della nostra educazione, e noi non siamo per niente d'accordo, perché questo non è proprio la prospettiva che ci vogliamo immaginare. Quindi insomma vi volevamo lasciare con un pensiero un po' più positivo, nonostante l'argomento non lo sia, e quindi insomma che l'unico modo per cominciare a distruggere veramente dalle basi, dalle fondamenta il sistema carcerario e quindi anche il sistema sociale, è quello di creare rete di solidarietà, di smettere di farsi strumentalizzare, di ricordare che le leggi sono semplicemente un rapporto di forza che è destinato ai deboli, non certo a chi invece sta nelle classi sociali forti. E che noi dobbiamo smettere di chiedere qualcosa, basta con la delega, solidarizziamo tra di noi e tentiamo finalmente di costruire qualcosa che non sia quello che ci viene proposto. I love singing, good healthy clinging, quietly bringing on a spree. Marriage is for old folks, cold folks, not for me. One married he, one married she, what do you got? Two people watching TV. I'm not ready to quit being free, and I'm not willing to stop being me. I gotta sing. Prima di chiudere la trasmissione volevamo ricordarvi gli appuntamenti. Il primo è il prossimo 10 novembre alle 12 al 22 in via, scusate, al 22 di via De Volci, per l'assemblea cittadina per parlare dello stupro dell'Aquila. Un'assemblea organizzata dalle compagne femministe e lesbiche, e vi lascio anche il nostro indirizzo: militari all'Aquila chiocciola anche.no. E invece venerdì 8 la nostra assemblea, sempre al 22 di Via De Volci, alle 19:30. E se volete scriverci per darci contributi sia per le prossime trasmissioni con approfondimenti sulla carcerazione femminile, e sia per quanto riguarda l'assemblea che si terrà venerdì 8 in preparazione del 25 novembre, vi ricordiamo di scriverci a coordinamenta@autistiche.org. E anche il nostro blog, dove potete trovare tutte le notizie, che è coordinamenta.noblogs.org. Adesso, per concludere, vi volevamo leggere un estratto dal libro di Angela Davis, che si intitola Aboliamo le prigioni, contro il carcere, la discriminazione e la violenza del capitale, edito da Minimum Fax. Chiunque sia impegnato per studio o attivismo in progetti femministi dovrebbe considerare la struttura della punizione di Stato come un aspetto non marginale del suo lavoro. Ricerche e strategie organizzative lungimiranti dovrebbero riconoscere che il carattere della pena, condizionato com'è dal sesso del detenuto, riflette e rafforza la struttura sessista della società nel suo insieme. È nell'ottica dell'attuale espansione delle prigioni, sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo, che dovremmo esaminare alcuni aspetti storici e ideologici della punizione di Stato imposta alle donne. Dalla fine del XVIII secolo, quando, come abbiamo visto, l'incarcerazione iniziò a emergere come forma dominante di punizione, le donne detenute sono state rappresentate come sostanzialmente diverse dalla loro controparte maschile. È vero che gli uomini che commettono trasgressioni giudicate dallo Stato passibili di pena sono etichettati come devianti sociali. Ciò nonostante, la criminalità maschile è sempre stata considerata più normale di quella femminile. C'è sempre stata la tendenza a reputare le donne punite pubblicamente dallo Stato per le loro malefatte molto più aberranti e pericolose per la società dei loro numerosi simili di sesso maschile. Se si vuole capire questa differenza sessista nella percezione dei detenuti, bisogna tener presente che quando la prigione emerse e si sviluppò come la principale forma di punizione pubblica, le donne continuarono ad essere sottoposte a forme di castigo che non erano riconosciute come tali. Per esempio, sono state rinchiuse più spesso negli istituti psichiatrici che in carcere. Gli studi, che indicano che le donne avevano più probabilità di finire in manicomio rispetto agli uomini, suggeriscono che mentre prigioni e penitenziari sono sempre stati le istituzioni dominanti per il controllo degli uomini, gli ospedali psichiatrici sono serviti a